La bomba atomica particolare di cui si parla in questo filmato invece secondo me è una bomba atomica convenzionale, resa solo più piccola perché si impoverisce in qualche modo artificiale il flusso di neutroni e quindi uno la rende meno potente e quindi diminuisce la distruttività, che infatti diventa 5 chilotoni, rendendola solo un po' più inefficiente. Però non si può andare molto al di sotto senza non farla funzionare. Per cui è possibile che né in tutta la strategia adoperata, uno può dire, quell'arma probabilmente è stata usata per intimorire l'Iran, infatti è stata fatta esplodere al confine iraniano, e dire attenzione. Del resto anche Hiroshima e Nagasaki vennero usate alla fine del conflitto, non all'inizio, e non avevano lo scopo di sconfiggere il Giappone, perché il Giappone si era già arreso, aveva già fatto sapere che voleva finire la guerra arrendendosi, e il governo americano ha detto aspettiamo un momento, perché? Perché intendeva usare queste armi non ma come monito per gli altri paesi, in primo luogo l'Unione Sovietica, per dire attenzione, noi abbiamo queste armi di nuovo tipo e abbiamo anche il fegato di usarle, quindi state attenti. Quindi era un'arma per il dopoguerra, e anche qui è stato usato allo stesso modo, cioè c'era l'Iran, che è stato un nemico dell'Iraq, è stata una guerra a lungo, il quale poteva pensare di approfittare della crisi dello Stato iracheno sufficiente alla sconfitta militare per intervenire, dopodiché gli americani gli fanno esplodere una bomba atomica alla frontiera e dice attenzione, occhio che se vi muovete noi vi fulminiamo, e quindi quella bomba essenzialmente aveva uno scopo terroristico. Le altre armi invece che scopo hanno? Cioè uno può domandarsi, ma perché se lo scopo è ammazzare un'unica persona io devo usare questo strano oggetto nucleare invece di dargli puramente e semplicemente una coltellata, che è una cosa meno, oppure sparargli una pistolettata vecchio stile con una Colt, che è un sistema meno tecnologico però che raggiunge lo stesso effetto? E la risposta è che la morte provocata nel modo convenzionale è molto meno spaventosa della morte veramente terrificante provocata in questo modo. Quindi queste armi hanno una funzione terroristica, quella di spaventare. Oltretutto, con la radioattività che inducono nel terreno, possono spingere, perché c'è sempre un'idea di pulizia etnica dietro, mettendo nei panni gli israeliani, loro sarebbero contenti se i palestinesi se ne scappassero tutti dai territori e se ne andassero lontano, no? Allora dico, se noi vi costelliamo il territorio di oggetti radioattivi, e voi ci potete pensare, questa radioattività è pericolosa, è meglio che me ne vado altrove, in una zona meno... E quindi realizzare, la stessa cosa con l'Iban, e realizzare così, in modo surrettizio, una finalità di pulizia etnica. Naturalmente, siccome i poveri libanesi, palestinesi non sanno dove andare, restano lì, e l'unica conseguenza è che diventano più feroci e dicono, visto che io devo morire, muoio insieme a te. Concludo appunto con la famosa frase che Winston Churchill disse nel 40 ai piloti della RAF, che sembra il manifesto del male kamikaze, l'ha scritto Winston Churchill, non Osama Bin Laden. La parola d'ordine che Winston Churchill dette ai piloti della RAF fu: portatene all'inferno almeno uno con voi. E questo è quello che disse: va bene, adesso tu mi hai reso radioattivo, io in capo a 15 anni da oggi morirò di cancro, va bene, nell'attesa sai che c'è di nuovo, muoro da kamikaze, così muoio gloriosamente e ve ne porto via 5 o 6 dei vostri. Voilà. E quindi alla fin fine si scopre che nonostante l'uso di queste armi terrificanti, per la prima volta nella sua storia l'esercito israeliano ha cominciato a perdere le guerre.